www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la quiete apparente nasconde le quotidiane atrocità, Kappa e Drago misurano la febbre a Georg Büchner. Ecco, vedi, 19 gradi. Ci siamo, Drago, ci siamo. La caldaia ormai è tiepida. E questo vuol dire che... il cervello di Büchner è sfebbrato. Bravo. Quindi la proverbiale virulenza del linguaggio büchneriano dovrebbe risentire. Vediamo. L'ipotesi peggiore è che Büchner sfebbrato scriva come Giorgio Faletti. Però ci sono anche tanti stadi intermedi, perché Büchner potrebbe di colpo mettersi a scrivere come Claudio Magris, che tra l'altro è il suo traduttore italiano, e quindi diventare tutto metafisico, la nebbiolina di Trieste, la Mitteleuropa, certo, e quelle robe lì. Oppure, che ne so, potrebbe diventare uno spirito matematico come Calvino e fare letteratura fredda, appunto, da 19 gradi. Però ormai le possibilità sono infinite, quindi che ne sappiamo? Ma non lo so. Oppure sfebbrato, Drago, Büchner potrebbe, che ne so, rendersi conto che scrivere drammi è proprio l'ultima cosa che vuol fare. E quindi ritirarsi e, che ne so, giocare a golf per il resto della sua vita. Ach du Scheiße! Ucronia, questa si chiama ucronia. Ucronia, sì. Il what if, Drago, il cosa sarebbe successo se... l'ucronia, dai. Sì, sì, ho capito. Bellissimo esercizio, però come tutti questi esercizi, alla fine in sé non possiede nulla di bello, ma un po' sterile. Ma sì, non dai. È un esercizio, è un gioco, Drago. Pensa a tutte le ipotesi che si sono fatte sulle conseguenze di un'eventuale vittoria della Germania nel 45. È un bellissimo gioco. E giochiamolo. Giochiamo. What if Georg Büchner fosse questa fabbrica di polli? Beh, innanzitutto è certamente difficile immaginare che io e te, caro Drago, che siamo due esseri umani di una certa età, soprattutto tu, guarda te, è difficile, dicevo, immaginare che tutta la nostra esistenza si sia svolta in un universo in cui lo scrittore tedesco Georg Büchner è una fabbrica di polli. Cioè, caro Drago, io lo trovo quantomeno sconcertante, non so tu. E quindi? What if Georg Büchner fosse questa fabbrica di polli? Beh, se Georg Büchner fosse questa fabbrica di polli, beh, moriremo tutti giovani. Il povero Büchner non aveva ancora 24 anni quando il tifo lo stroncò. È morto. Quindi bisogna scoprire quanti anni ha in questo momento Büchner, K. Sì, ma dove la tiene la carta d'identità uno come Büchner? La tiene insieme all'orologio da taschino, quindi nella tasca interna della giacca, solo che noi siamo dentro il suo corpo, quindi c'è impossibile arrivare alla tasca interna della giacca. Vabbè, ma forse possiamo capire l'età di Büchner dallo stato dei suoi organi interni. E i suoi organi interni quali sono, però? Beh, abbiamo detto che la caldaia è il cervello, quindi sì, diciamo che la testa di Büchner è la sala caldaie. Sì, ma Büchner è coricato o in piedi? Vabbè, ma cosa c'entra, Drago? Noi gravitiamo al suo interno senza subire contraccolpi da quello che succede fuori, dai, lo sai, no? Viaggio allucinante, Asimov. Quindi? E quindi? Quindi, se la sala caldaia è la testa, vuol dire che il macello dall'altra parte della fabbrica saranno i piedi. Quindi, fammi pensare, il cuore, che sta a metà sulla sinistra del corpo, è... è l'ufficio dell'amministratore delegato. Il cuore di Büchner è l'ufficio dell'amministratore delegato. E il fegato, il reparto delle galline ovaiole. E il pancreas, quindi, è la sala di incubazione delle uova, laggiù. Perché il pancreas? Per le isole di Langerhans. La fabbrica di polli. Oh, ma che freddo fa? Non è che hanno spento il riscaldamento qua, eh? Tarek? Riscaldamento? Oh, madonna, Tarek! Lo sai che se c'è una cosa che non sopporto è quando ripeti l'ultima parola che ho appena detto. Ripeti. Tu. Aia. Ma quale aia? Riscaldamento. Appunto, riscaldamento. Ma lo senti che freddo che fa? Ma qui sono impazziti, eh. Qui saremo scesi sotto i 38 gradi. E le uova non si schiudono più, eh. Poi qui, il premio di produzione, chi è che lo vede più? Vedi più? Frank Zuckwood. Giorno, Frank Dinosaurus. Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è, questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. E allora mostra agli illustrissimi signori il tuo talento. Illustrissimi, davvero illustrissimi signori. Noi siamo usciti dalla centrale e in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E questo animale che loro vedono, questo cavallo con la sua bella coda che gli pende là sotto e le sue quattro zampe con tanto di zoccoli, è un autovelox che fa multe senza pietà ed è membro di tutte le società di cultura. È professore alla nostra università, presso la quale gli studenti hanno modo di apprendere da lui l'arte dell'equitazione e quella del tirar calci. Aia! Però, Drago, scusa, non mi sembra tanto diverso da prima. Questo è il famoso monologo del saltimbanco dal Wojciech, giusto? O dal Wojciech. Vabbè, è quello che dice Zeig dein Talent, Zeig dein Talent. Zeig dein Talent. Zeig dein Talent. Zeig dein Talent. Zeig dein Talent. Zeig dein Talent. Zeig dein Talent. Comincia a far freddo, ma la febbre di Büchner non accenna a diminuire, sempre lì. No? Sempre lì che farnetica contro la società, contro l'uomo. Il cavallo. Poi l'uomo. Canta anche Zeig dein Talent, du da Darmstadt Boogie. Insomma, si vede che è davvero arrabbiato di suo, così al naturale, anche senza febbre. Però sai cosa? Non è che mi suonasse tanto giusto il monologo del saltimbanco. C'erano sì delle parti di Büchner riconoscibili, però in mezzo ho sentito anche cose tipo... Tipo? Tipo, ci hanno chiamati dalla centrale. Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è, questa vita di stracci e sorrisi, di mezze parole. Sì, Drago, ma è l'abbassamento di temperatura che comincia a fare effetto. Vedi, sì, dagli ancora qualche ora e vedrai che lo sentirai cantare le canzoni degli 883. Georg Büchner che canta Hanno ucciso l'uomo ragno. Sì, suonerebbe Man hat den Spinnemann getötet. Pensa che hit nel 1830 in tutti i salotti letterari. La caldaia è scesa sotto i 19 gradi, mi sa che scatta l'allarme sicurezza. Quindi? E ci conviene andarci. Büchner, come faremo a capire se Büchner e la fabbrica sono davvero la stessa cosa? Non importa, non serve restare qui alla sala caldaia per scoprirlo, dai. Basta ascoltare i messaggi in tedesco che trasmettono in continuazione. Ascolta, stanno già cambiando. Senti. Come minchia, signor tambuo maggiore, signor tenente tambuo maggiore. Minchia, Ausbein mit Nachfunk zu sein gegenüber. Che cosa succederà adesso? L'abbassamento della temperatura nella fabbrica di polli avrà conseguenze sulla temperatura interna del grande drammaturgo tedesco Georg Büchner. Questo mistero sta per essere risolto e non manca molto. Basta aspettare fino a domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo mega ucronico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non La